got a slick chick. She a neat chick, but she's what makes me tick. Mama, yeah, yeah, yeah, yeah. Clickety click, a slick chick. Yeah, yeah, yeah, yeah. A high heels on for the baby blues. What a sack. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Purple lipstick for the very first time. Man, oh man, yeah, yeah, yeah. It was a night. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Everybody stopped, we're on a dime to look. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Even my heart, my heart got a shook. Yeah, yeah. Yeah, yeah. She's my clickety click, I'll switch it. She's Miss Rhythm, she's Miss Rhyme. Oh man, she is mine. I said, oh, I gotta switch it. She's a neat trick, but she what makes me tick. Mama, clickety click, I'll switch it. Yeah, don't you know she's a stick? Mama, yeah, yeah. I still yeah, got you. Yeah, yeah. Ah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. I still chick. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Mama. Yeah, yeah, yeah. Click it, click it, I still chick. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. I got a yeah, crazy yeah, little chick. Yeah, yeah. I don't yeah, you know she's slick. Yeah, yeah. Life and make like an ape man. La la la. ritrovati e ben ritrovate a una nuova puntata scintillante di Slick Chick. Oggi, che giorno è? Il 13? Sì, 13 dicembre 2017. Triste ricorrenza, in realtà, cominciata con la commemorazione della strage di 6 anni fa in Piazza Dalmazia ad opera del fascista Casseri. E vabbè, è iniziata un po' tristemente, ma Slick Chick in realtà è completamente su un altro tono, perché sì, non ci piangiamo addosso, tiriamo avanti e anzi, parliamo di cose che tristi proprio non sono. Oggi parliamo di cose allegrotte che ce la fanno un po' prendere bene, anche perché d'altra parte la scorsa puntata chi ci ha seguito, cioè la scorsa puntata l'abbiamo zompata, sì, va bene, l'ho zompata a pie pari, ma avevo delle giustificazioni molto molto importanti e serie. Ma insomma, la puntata prima che è stata registrata, insomma, che avete sentito con il Dalai Lama e che potete trovare in podcast comodamente sul nostro sito, che approfitto per ricordarvi, wombat.noblogs.org, quella puntata là era sulla 52esima strada e abbiamo, col Dalai Lama, a parte esserci dilungati in una puntata fiume di 2 ore e mezzo che probabilmente avranno provocato il suicidio di gran parte di voi, ma in ogni caso vi abbiamo raccontato di fatti non proprio edificanti e insomma smancerie, perché la 52esima strada è legata al doppio filo del bebop, della musica nera, jazz, swing e quant'altro, e quindi per forza ha i loro destini spesso piuttosto inquietanti, brutti e tristi. Ma vabbè, non che ha una musica bellissima, ma vabbè, basta, già vi ho tediato per 2 ore e mezzo, non è che ora vi riepilogo la puntata. Quest'oggi, appunto, per ripigliarci un pochino, parliamo di tutt'altro e parliamo di animaletti. Cioè, fate conto di essere sulla colonna dei gattini di Repubblica o di qualche altro giornalaccio, che comunque è la parte migliore di questi giornali, non so se convenite con me. Sì, allora, precisiamo subito, siccome sono troppo importanti, i gatti avranno una puntata a sé stante. Non è che potevo buttare i nobili gatti qui in mezzo allo zoo, in mezzo agli altri animali. E lo stesso vale per i cani, che anche loro avranno una loro puntata dedicata. Quindi sappiate, prendete nota, insomma, so che sarete contenti di questo. Ma oggi, appunto, ci invece concentreremo su tutta la fauna, o vabbè, no, tutta direi di no, ma insomma una parte. Abbiamo iniziato con The Kinks, Ape Man, l'uomo scimmia per l'appunto. L'album è Lola vs. Power Man and the Money Ground, Part 1, del 1970. E Ray Davies, che è il compositore che ha scritto questa canzone, ha dichiarato che sostanzialmente la canzone parlava di un uomo che era infelice nel mondo moderno, si trovava male, non ne poteva più di tutta questa modernità. Infatti, se avete notato, la canzone si apre con uno strombazzare di clacson e cercava di uscire da questa monotonia grigiore della vita quotidiana, moderna, stressante e quant'altro. Bontà allora, era il 1970, pensiamo adesso. E insomma, si augurava di poterne uscire in un Eden un po' idealizzato, di una giungla dove poteva vivere come un uomo scimmia, non avere problemi, stare lì senza civiltà in mezzo alle zanzare e tutto quanto, che comunque è molto meglio che non stare in mezzo al traffico. Questo perlomeno quello che pensano i Kinks, o che pensavano perlomeno. E beh, sì, animali in questo senso un po' un po' in senso lato, ecco, beh sì, però vedremo poi all'interno di questa scaletta che c'è molti, molti musicisti in realtà vedono un po' al mondo animale come una fuga, come un ah, beati loro che non hanno problemi. Ora, chiaramente tutto ciò è quantomeno umanocentrico e anche un po' altezzoso, poi in realtà gli animali hanno già i loro problemi, però vabbè, in ogni caso lasciamoci sognare, cioè, insomma, se ci piace pensare che gli animali stanno meglio, pensiamo, speriamo di essere animali, che vi devo dire, d'altronde lo siamo peraltro e vabbè. Quindi proseguiamo, proseguiamo e dalle scimmie passiamo ai topi, e già insomma siamo su animali un po' spiacevoli, almeno per alcuni. Battle of Mice è il nome del gruppo, ma non solo gli animali sono contenuti nel nome del gruppo, ma anche nella canzone, il titolo della canzone che ci andiamo a ascoltare, che si intitola The Lamb and the Labrador, l'agnello e il Labrador. E vabbè, diciamo che entrambi insieme sarebbero una bella coppia. L'album è They Own Nights del 2006 e i Battle of Mice, non mi ricordo onestamente se ve l'ho già proposti, secondo me no. Comunque è un gruppo, beh, quello che la stampa e gli addetti ai lavori, guardate che bei termini che snocciolo oggi. Chiamano supergruppo, i supergruppi, che ovvero quei gruppi che hanno come membri musicisti importanti di altri gruppi famosi. Cioè, ora, perché se io fondo un gruppo insieme al cantante di Carlos Dunga, quello dei, non lo so, il batterista dei DeLorean e il chitarrista dei Cora non lo chiameranno un supergruppo perché comunque c'è un po' di razzismo, VIP. Vabbè, questo è un supergruppo, tant'è. Ed è formato da Julie Christmas dei Made Out of Babies, poi Josh Groham, ex Neurosis ed altri, Joe Hamilton, Book of Notes, Tony Maimon, anche lui dei Book of Notes, e Pere Ubu. E poi Joe Tomino dei Fugees, Dap Trio, Peeping Tom più che altro e altro. E altri vari, ma vabbè, a parte parlare dei Battle of Mice, che secondo me è anche poco interessante, più interessante è prendere lo spunto dal titolo, appunto, Battle of Mice, la guerra dei topi, e da lì partire per lidi completamente diversi che ci portano all'origine di questo nome, che il gruppo ha scelto, ovvero la guerra di Agide, definita appunto da Alessandro Magno la guerra dei topi, che fu una battaglia, un conflitto durato anche un bel po' nell'antica Grecia del IV secolo avanti Cristo, che sostanzialmente derivava da la città-stato di Sparta, dagli Spartani, che allora si trovavano sotto il regno di Agide III, che decidono di sfidare la Lega di Corinto e la Macedonia, che al tempo insomma, era abbastanza predominante, e decisero di sfidarli, ma vennero sconfitti, quindi andò un po' così. Ma ancora più interessante, secondo me, parlando di guerra di topi, è spostarsi ancora più là per associazioni di idee in una saltabeccare qua e là veramente ardito e arrivare alla batracomiomachia. No, cioè, guarda, scusate, ma vorrei ridirlo, batracomiomachia, perché ci tenevo tantissimo da quando non andavo al liceo che non dicevo più questa parola. E che cos'è? È la guerra dei topi e delle rane, in italiano, opera di Omero del VI secolo avanti Cristo, che sostanzialmente è un po' una parodia dell'epica classica, ovvero la guerra dei topi e delle rane aveva un po' come temi principali le scene emotivi di quell'epica. Ovviamente famosa già al tempo e figuriamoci adesso. Però prendeva questi temi e li sovvertiva di fatto e lì un po' li prendeva in giro in chiave di parodia. Quindi, per esempio, c'erano i concili degli dèi, la rassegna dei guerrieri, le esortazioni, le scene di battaglia, che di fatto erano un po' il bagaglio tradizionale dell'epica. E c'erano anche delle frecciatine, ad esempio, c'era un riferimento all'Iliade, guarda un po'. Dove questa trappola per topi è definita l'inganno di legno, riferendosi chiaramente al cavallo di Troia. La storiella è questa: il re delle rane gonfiagote persuade il timoroso Rubabriciole, figlio del re dei topi Rodipane, a montare sulle sue spalle per visitare il lago, assicurandolo che non correrà alcun pericolo. Tuttavia, appare all'improvviso un serpente d'acqua. E gonfiagote per sfuggirgli, codardo, si immerge facendo così annegare Rubabriciole. Un casino, proprio un problema diplomatico. La guerra ovviamente scoppia subito e proprio quando la vittoria sembra ormai dei topi, Zeus scaglia il suo fulmine. E in quel momento, proprio in quel momento, arrivano sul campo di battaglia anche i granchi che annientano alcuni topi facendoli a pezzi, mentre altri fuggono in preda al panico. Questa, appunto, è la guerra dei topi e delle rane, ovvero la batracomiomachia di Omero, e questa invece è la Battle of Mice, cioè, o meglio, i Battle of Mice con The Lamb and the Labrador. Thank you. Radio Wombat, Battle of Mice, The Lamb and the Labrador. E proseguendo ci inoltriamo in altri territori animali, ovvero quelli più volatili, quelli più dell'aria, perché parlando di animali non potevamo non citare un animaletto che secondo me in realtà meritava probabilmente anche lui una puntata a sé stante, però ora non è che potevo fare tutti ogni puntata su una, non lo so, un animale diverso, perché sennò poi mi chiamavate, mi scrivevate dicendo vabbè, ho capito, ma c'è altro nel mondo. Perché però secondo me ne valeva la pena, perché parlavamo del corvo. Ora, a me il corvo piace un sacco, devo dirvelo, è un animale stupendo, purtroppo soprattutto qui in Toscana non si vede, almeno io non lo vedo mai, non mi capita mai di vederlo e ci rimango molto male, perché invece mi piacerebbe un sacco, lo trovo molto simpatico. Eppure il corvo non gode di una grande fama, o meglio viene un po' trattato male da tutti, viene visto male da tutti. Tutti, si dice porta male, ma in realtà, poraccio, svisceriamo meglio i motivi vari per cui viene, si dice che poverino porta male. In realtà non è assolutamente così. Il corvo è il corvus in latino, ovviamente, e i corvi sono un genere di uccelli passeriformi appartenenti alla famiglia dei corvidi, che annovera 46 specie, e quindi insomma in realtà sono anche, si fa presto a dire corvo, ce ne sono un bel po'. E i corvi in realtà si dice che c'è un po' questa diceria che dove arrivano loro distruggono l'ecosistema, perché mangiano un po' di tutto, mangiano ogni tipo di insetto, ogni tipo di seme, eccetera. Per cui c'è questa credenza, anche se ben poco verificata in realtà, che siano un po' un flagello. E non so bene se per questo, probabilmente molto più semplicemente per il loro colore nero e il loro portamento elegante, un po' così, che si è un po' diffusa in varie parti del mondo la diceria, appunto, che li collega alla morte o agli avvenimenti nefasti. Tant'è che nella letteratura, ad esempio, The Raven, il corvo, è ovviamente un'opera forse tra le più famose di Edgar Allan Poe, che però non aveva poi in realtà un'aria così sinistra. Non è che lui di per sé faceva qualcosa di male, anzi era un po' il consigliere del povero Allan Poe, affranto per la morte dell'amata, e che in realtà gli faceva un po' da spalla e ascoltava i suoi pensieri cupi. Rispondeva peraltro sempre e soltanto con la parola nevermore, mai più. Ecco, c'è da dire che anche lui non è che proprio ci metteva del suo a rallegrarlo, però vabbè, insomma, non è che gli aveva ammazzato lui la moglie, no, l'amata, ecco. E poi nell'arte ci sarebbe da citare anche Van Gogh, il campo di grano con i corvi, che poi stanno sotto questo cielo temporalesco piuttosto inquietante. Insomma, spesso nella leggenda, nell'iconografia, il corvo è un portatore di eventi nefasti, ma in realtà non è lui che li porta, se andiamo a un po' sondare meglio, ma semplicemente arriva con essi. Cioè, diciamo che quando si vede il corvo è perché siamo già in un momento nefasto, quindi non è colpa sua, ecco. È semplicemente che c'è anche lui, come, cioè, piove e c'è la pioggia, sì, grazie, sì, c'è la pioggia, ci si bagna, ecco, e il corvo è insieme agli avvenimenti nefasti, ma non è che li porta. Tant'è che in realtà in alcune culture, anzi è il contrario, il corvo è colui che arriva, per esempio sul corpo, sul campo di battaglia o anzi in momenti tristi dove ci sono pensieri cupi, eccetera, e li porta via. Cioè il corvo è colui che si sobbarca le brutture, i pensieri tristi, ma anche la sventura in qualche maniera e la porta via lontano. Quindi, anzi, direi che è un animaletto poi in fin dei conti simpatico. Questo, tutto ciò, insomma, era per introdurvi il pezzo di Nick Cave and the Bad Seeds, ovviamente Black Crow King. L'album è The Firstborn is Dead, del 1985, e mo' ve lo beccate. I am the Black Crow King. I am the Black Crow King, the keeper of the nodding corn. Bam, bam, bam, bam. Bam, bam, bam, bam. All the hammers are a-talking. The hammers are a-talking. All the nails are singing. The nails are singing. So sweet and hear it in the valley, where live the lame and the blind. They climb my hill out of its belly. Lay with mean black boots shine. I just made a simple gesture. I jumped up and nailed it to my shadow. Spread eagles like a hookah. And all my shadows are made of timber. And the storm is a rolling. The storm is a rolling. And the storm, it's a rolling. I'm still here rolling after everybody's gone. Yeah, I'm still here rolling and I'm left on my own. The blackbirds have all gone. Everyone's rolled on. I am the Black Crow King, keeper of the trodden corn. I am the king. Won't say it again. And the rain, it raineth daily, Lord, and wash away my clothes. Surrender up my arms to a company of crows. I am the Black Crow King. Honey, I won't say it again. All the thorns are a crown. The thorns are a crown. King Ruby on each spine. And all the spears are a sailing. Oh my, the storm is rolling. The storm is rolling. The storm is a rolling. Rolling all down on me. And I'm still here rolling after everybody's gone. I'm still here rolling after everybody's gone. I'm still here rolling after everybody's gone. The blackbird's flown. Everybody's gone, and I'm on my own. I am the Black Crow King, keeper of the forgotten corn. The king, the king. I'm the king of nothing at all. The hammers are talking. The hammers are talking. The nails are singing. The spears are sailing. The spears are sailing. The thorns are crowning. The thorns are crowning. The crows are mocking. The crows are mocking. The cone is a nodding. The cone is a nodding. it's a rolling. The storm is rolling. Yeah, the storm, it's a rolling. The storm is rolling. Down. The storm is a rolling. The storm is rolling. The storm is a rolling. Down. Yeah, rolling down. Eccoci qua, e invece gli Shellac ci parlano degli scoiattoli, cioè perché è ben facile parlare dei corvi, dei topi, tutti questi animali qui che sono stati citati da tutti, sono simboli di qualsiasi cosa, è facile fare una canzonetta così, e invece no, gli Shellac parlano degli scoiattoli, in particolare la storia. Questo l'ha detto proprio lo stesso Albini, quindi insomma, anche se è bislacca, gli darei credito. La storia è di questo ragazzo che vuole isolarsi dal mondo, un altro, non ne può più della modernità, della civiltà odierna, bla bla bla, e allora decide di chiudersi in casa e generare energia elettrica utilizzando gli scoiattoli. Ora, la canzone non spiega come, io ho avuto leggendo questa cosa subito dei pensieri bruttissimi, di torture ai poveri scoiattoli, poi ho pensato vabbè magari le dinamo banalmente, no? Come criceti, vabbè non si sa bene Albini cosa avesse in testa. Però tant'è che la canzone va avanti e questo poveraccio, insomma poveraccio, vabbè, era un po' stranino pure lui, insomma in ogni caso tutti i suoi sforzi gli si ritorcono contro perché la sua vita viene inondata da migliaia di scoiattoli, secondo me anche un po' infastiditi, che in qualche maniera diventano lo scopo principale della sua esistenza, e quindi lui si dimentica di qual era la cosa che voleva fare e pensa soltanto a questi scoiattoli e a come gli si sono introdotti nella vita. Va bene, e che vi devo dire? Agli Shellac è venuto in mente questo e noi ce lo prendiamo. Quindi, Squirrel Song degli Shellac. L'album è 1000 Hearts del 2000 e questi sono gli scoiattoli. This is a sad fucking song. We'll be lucky if I don't bust out crying. Thank you. isn't some kind of metaphor. Goddamn, this is real! Questi erano invece gli Uzeda, i catanesi Uzeda con Save My Snakes. Io non so voi, ma io quando ascolto gli Shellac poi ci associo quasi subito gli Uzeda, in realtà per varie ragioni, non soltanto per l'assonanza musicale, ma vabbè anche per le collaborazioni che li hanno legati. E devo dire, me li sono visti gli Uzeda quest'estate alla Rocca di Carmignano qui in Toscana e sono stati meravigliosissimi. Vi consiglio assolutamente, se vi capita che passino dalle vostre parti, di andarveli ad ascoltare e a vedere, perché è veramente vi prendereste un bel concerto, ecco, ve lo consiglio molto. L'album, vabbè, il titolo del brano innanzitutto è Save My Snakes, i serpentacci, su cui non mi soffermo perché mi fanno schifo, quindi non vado oltre, e l'album è Waters del 1993. Proseguendo invece sempre su rettili e animali a sangue freddo, abbiamo Lizard King dei Sad Lovers and Giants. Lizard King, ovvero Il Re Lucertola. L'album è Three House Poetry del 1991 e le molteplici citazioni contenute nel testo, non so voi, a me fa pensare decisamente che sia un brano dedicato a Jim Morrison, a cominciare dal titolo, appunto, Il Re Lucertola, ma ce ne sono un bel po' di altre sparse in questo brano. E i Sad Lovers and Giants sono un gruppo musicale britannico che risale al 1980 ma tuttora in attività. Il loro destino è stato per molto tempo incrociato con quello dell'etichetta Midnight, la Midnight Music, e di fatto aprono il loro catalogo nel 1982 pubblicando il loro primo disco e lo chiudono anni dopo con Three House Poetry, questo disco proprio da cui è tratto il pezzo che ci stiamo per ascoltare. E l'anima della Midnight, Nick Ralph, muore di malattia qualche anno dopo, e con lui muore anche l'etichetta, un po' per forza di cose. Seguono 10 anni di silenzio per i Sad Lovers and Giants, che sono visibilmente provati dalla questione, finché poi il gruppo decide alla fine di ricominciare fondando una propria etichetta, la Voidkampf Records. Quindi sono tutt'oggi in attività, hanno sfornato diversi altri album, alcuni raccolti ma alcuni anche album nuovi, e girano anche un bel po'. Io anche questi mi sento di consigliarveli, tutt'altri toni, siamo più sulla new wave, diciamo, cosiddetta, ma secondo me molto molto belli. Belongs to callous children. Look at the stage. Wombat Radio, e questo invece era Desmond Dekker, che ce l'ha con gli ippopotami, che secondo lui sono cattivi e ipocriti. Ora io non lo so, può darsi, anche perché effettivamente dice che sono piuttosto aggressivi gli ippopotami, che sono degli animali più pericolosi che esistano. Io non l'ho mai conosciuto un ippopotamo, quindi non ve lo so dire. Sono legata un po' al vecchio ricordo di fantasia della danza delle ore con gli ippopotami col tutù, quindi mi sembra tutto molto bello e tutti molto teneroni e puccettosi, però in effetti che ne so io, forse c'ha ragione Desmond Dekker. Questo era Hippopotamus, appunto, giusto per essere di descrizione, del 1984. Ma adesso cambiamo completamente registro, perché ci affidiamo a in realtà due, via, li potrei già dire insieme, due personaggi degli anni 70, primi anni 70, che in modo molto diverso tra loro, ma forse neanche poi troppo, hanno fatto l'inizio e la storia del glam. E vi parlo in particolare di Brian Eno, perché sì, ebbene sì, Brian Eno, prima della musica elettronica, anche se già al tempo il suo contributo era parecchio elettronico, ma non solo. E al tempo, negli anni, primi anni 70, penso che molti di voi lo sapranno, Brian Eno era a tutti gli effetti un musicista glam, di quel glam androgino e interessante, ecco, di cui facevano parte tutti quei vari musicisti di cui vi ho sempre parlato e che, con cui vi ammorbo ogni tanto. E tra cui, secondo che poi vi faccio ascoltare, i T-Rex, ovviamente, di Mark Bolan. I due pezzi che ci andiamo ad ascoltare sono Brian Eno, appunto, con Spider and I, giusto per citare anche i ragni, un po' di insetti, e i T-Rex invece, Rabbit Fighter, un pezzo bellissimo secondo me. Brian Eno, Spider and I, è dell'album, tratto dall'album Before and After Science del 1977, non uno dei suoi, cioè non il primo album assolutamente, ma uno dei primi in ogni caso, e diciamo un po' a cavallo tra il suo primo periodo glam e quello poi successivo, decisamente più ambient e come dire rilassato, ecco. E invece T-Rex con Rabbit Fighter, l'album Head Slider del 1972, uno degli album più importanti dei T-Rex, direi, quando si staccano completamente dal quel repertorio un po' più folk che avevano all'inizio. Il testo di Spider and I di Brian Eno è molto breve, quindi ve lo posso leggere in una traduzione sommaria in italiano. Il ragno io stiamo seduti guardando il cielo in un mondo senza suono, tessiamo una ragnatela per catturare una piccola mosca per il nostro mondo senza suono. Dormiamo la mattina, sogniamo una nave che ci porti via, lontani mille miglia. bullet fighter. You know it's true. People, rabbit fighter. He's my friend. Moondog's just a prophet to the end. Call me Rabbit Fighter. You know it's true. Bitter Rabbit Fighter. Oh, yeah. Fiverr, Mark Bolan and T-Rex. E vi ricordo i social Wombat, i social Wombati, il sito innanzitutto che già vi ho citato all'inizio, wombat.noblogs.org, che ha una piccola novità da pochi giorni, ovvero nella colonna di sinistra troverete un po' di news su quello che succede nel mondo attraverso i podcast, le notizie delle nostre radio amiche, in particolare di Radio Onda Rossa e di Radio Blackout, e anche un po' di contributi nostri, di interviste e quant'altro, che non sono necessariamente intere trasmissioni, ma piccoli contributi sul mondo odierno e quello che sta succedendo, un po' di informazione, insomma. Se avete guardate questo sito da dispositivi mobili, come si dice, ovvero smart cosi, eccetera, dovete avere pazienza e andare giù, perché l'ultima cosa è quella. Quindi, insomma, abbiate pazienza. D'altra parte, se no vi comprate un computer vero e vedrete tutto più bello. Poi la casella di posta wombat@insiberia.net e a cui potete ovviamente scriverci, fatelo e anche segnalateci gli appuntamenti della settimana dei posti liberati fiorentini, in particolare ci interessa. Ma veniamo al prossimo pezzo, che è di Malvina Reynolds, oddio, l'ho detto con troppe S, Malvina Reynolds, e il pezzo in questione è The Little Mouse, il topino, torniamo ai topi, ma questa volta dei topi piuttosto benefici. L'album è Mama Lion del 1976 e Malvina Reynolds è nata a San Francisco nel 1900, tondo tondo, e morta a Berkeley il 1978. Era una cantautrice e attivista, potremmo dire così. In realtà la sua storia è piuttosto interessante anche soltanto nelle origini, perché era nata da immigrati ebrei e socialisti oppositori alla Seconda Guerra Mondiale, antimilitaristi, e poi in seguito diventa grande. Malvina sposa William Reynolds, che è un carpentiere, oltre che un fervente comunista, pare. E tra l'altro i due hanno una figlia, Nancy Schimmel, divenuta anch'essa cantautrice. E poi Malvina Reynolds in realtà consegue una laurea e un master in lettere, letteratura inglese, all'Università della California, a Berkeley, dove in seguito consegue anche un dottorato in filosofia, nel 1938. Quindi, insomma, al tempo non era poi neanche così, banale per una donna avere tutti questi titoli e studiare così tanto. Era già grassa che riuscivi a sfuggire dall'uncinetto, diciamo. E Malvina Reynolds ha scritto un bel po' di cose buffe, con un'ironia tagliente e molto molto intelligente, quindi non il solito folk, che sicuramente è anche molto bello, ma a volte rischia, almeno a mio gusto, di essere un po' piagnone, ecco, e anche un po' banale volendo. Invece Malvina Reynolds aveva questa ironia, tra l'altro, non soltanto nei testi, ma anche nel modo di cantarli, di suonarli. D'altra parte era una vecchietta, cioè negli anni 60, 70, quando, che poi sono gli anni di cui abbiamo le registrazioni e dove lei si esibiva dal vivo, beh, erano gli anni che la vedevano molto attiva come cantautrice. In realtà lei di fatto era una vecchietta, c'aveva 80 anni, quindi insomma, e si sente un bel po' dalla sua voce ed è molto bella, anche molto tenera volendo. La storia che ci racconta in questo The Little Mouse è una storiella piuttosto interessante, tratta da un fatto di cronaca vera successo a Buenos Aires, quando un piccolo topo si introdusse in un istituto di credito, diciamo così. Poi era un po' più sottile la cosa, non era proprio una banca, ma comunque un istituto che faceva parte di una banca, e si introduce dentro questo istituto di credito e inizia a rosicchiare i cavi elettrici e fa fuori tutto, fa un casino, praticamente fa cortocircuitare tutto il sistema, la banca va completamente fuori uso. Questo dà il pretesto scherzoso e furbetto a Malvina Reynolds per riflettere sulla meccanizzazione, diciamo così, della società, l'automatizzazione della società e quella che si potrebbe dire la tecnologizzazione, la computerizzazione delle nostre vite. E di quanto poi in realtà però sia anche facile con veramente niente far crollare tutto ciò. Tant'è che nel testo Malvina dice: tutto questo parlare di cervelli elettronici che fanno girare il mondo delle banche e degli aeroplani, ma se un piccolo topino può mandarli all'aria, ma perché non possiamo farlo anche io e te? People ask me where I find the ideas for my songs, and I always say, if I knew, I'd go there every day. The San Francisco Chronicle is not too bad. I've gotten a couple of songs from that day. Okay. About a year ago, I guess it was, there was this little bitty item, but it was on the front page in heavy type, and it was about a situation that seemed to strike someone's fancy because they featured it. I thought it was worth a little song, so I wrote a little song about it. A little mouse got into the wires at the Central Clearinghouse in Buenos Aires. One little mouse short-circuited the computers, says a press dispatch from Reuters. Hooray for the little mouse that fucked up the clearinghouse and sent the stock exchange in a spin and made the bankers cry. So much for the electronic brains that run the world of banks and airplanes. And if one little mouse can set them all awry, why not you and I? Then there was another item in the papers about a bank's computers that messed up the accounts, so the farmer's checks all bounced. And his business fell apart and it nearly broke his heart. So he took the bank to court, and they gave him an award of $150,000. The bank appealed. And on due consideration, the higher court doubled the compensation. There is justice sometimes. So if a computer does it to you, you can sue or chew the wires through. A little mouse got into the wires at the Central Clearinghouse in Buenos Aires. One little mouse short-circuited the computers, says a press dispatch from Reuters. Hooray for the little mouse that fucked up the clearinghouse and sent the stock exchange in a spin and made the bankers cry. So much for the electronic brains that run the world of banks and airplanes. And if one little mouse can set them all awry, why not you and I? Hi. Che bellina. Io sarei ad ascoltarla per tipo tutto il giorno, ma non si può perché siamo abbastanza verso la fine, ci aspetta ancora qualche pezzettino da ascoltare, ma insomma siamo in chiusura un po'. Ma prima di avviarci verso la chiusura di trasmissione, vi leggo gli appuntamenti di questo fine settimana. Allora, essenzialmente non sono tantissimi, c'è soltanto due appuntamenti ma belli corposi e importanti, ed entrambi per sabato 16 dicembre. In particolare vi dico in ordine temporale il corteo per Samb e Diop con partenza alle ore 15 da Piazza Santiago Pino. Lo slogan è fuori fascisti da Firenze, fuori il razzismo dalla storia. Corteo appunto per ricordare la morte e l'uccisione di Samb e Diop dopo l'anniversario che si è consumato oggi. E insomma anche per riflettere su tutto ciò che stiamo vedendo in questi giorni, ma che in realtà diciamo non è che lo stiamo vedendo tutti i giorni. Ecco, la stampa e i politici di palazzo se ne sono accorti adesso che esistono i fascisti, è incredibile, probabilmente stavano, non lo so, in letargo in qualche isola felice, si sono svegliati ora e hanno scoperto questa incredibile verità che tutto il resto del mondo sapeva da circa sempre. E però adesso se ne sono accorti anche loro. Vabbè, tant'è, in ogni caso noi andiamo avanti lo stesso come abbiamo sempre fatto e ci tange abbastanza il giusto quello che scrivono i giornali e saremo ovviamente tutti in corteo questo sabato, appunto in partenza alle ore 15 da Piazza Santiago Pino, e per chi fosse azzuppato o non potesse venire per qualche bieca scusa, che spero sia importante, può ascoltare la diretta radio che il Wombat farà a partire dalle ore 15, quindi non avete scuse e siateci. Poi sempre sabato 16, dopo il corteo, freschi freschi, giusto il tempo di un teino, non lo so, qualcosa per riscaldarvi, poi la sera tutti al Next Emerson per due compleanni. Ci sono ben due compleanni, uno è il quinto compleanno di Miruz Sound System, un sound system dub ormai abbastanza noto a Firenze, autocostruito, autogestito e quant'altro. Ma poi c'è anche un altro compleanno, che è il primo compleanno del Wombat. Ebbene sì, primo compleanno di Radio Wombat. In realtà, come i più affezionati e le più affezionate sapranno, non è vero che è proprio quel giorno lì, non è 16 dicembre la ricorrenza di un anno preciso, ma vabbè, non ce ne frega niente del tempo e delle ricorrenze, e abbiamo deciso che ci lo festeggiamo un po' quando ci pare e cogliamo questa occasione di unire questi due compleanni. Quindi sabato 16 dicembre al Next Emerson, serata dub featuring in Miruz, Ranking Fox, Dubas e Disco Rebel, Ranking Fox da Belfast se non vado errata, e banchino ovviamente di Radio Wombat con, ve lo dico in anteprima, non lo dite a nessuno, è un segreto segretoso, le nuove magliette per autofinanziare questa radio che sicuramente ormai è la vostra preferita, lo so. Questi gli appuntamenti del fine settimana, continuiamo con la nostra scaletta e arriviamo a un animale un po' più esotico, visto che finora abbiamo parlato, a parte gli ippopotami, insomma abbiamo fatto ogni tanto delle digressioni, ma finora abbiamo parlato di animaletti un po' così di tutti i giorni, ora parliamo di tigri. E lo spunto ce lo dà La Mirada del Tigre, che è un gruppo madrileno di amici, onestamente, che quindi saluto ovviamente, e i loro testi sono un po' tutti incentrati sugli animali, sull'antispecismo e su la lotta per i diritti degli animali, ecco, diciamo così. Quindi è lo split, fra l'altro, da cui viene tratto il pezzo che ci andiamo a ascoltare, è uno split che La Mirada del Tigre ha realizzato insieme ai Chimpanzé, altro gruppo di Madrid, quindi insomma riferimenti su riferimenti. E l'album è lo split, questo qui è del 2016, e il titolo della canzone si chiama Admirable, e un pezzettino del testo dice che la tua specie superiore è stato dimostrato, ciò che farete con le altre sarà giustificato. Yeah! Questi erano i velocissimi e istantanei The Sands, ovviamente, I wanna be a bear, quindi vogliono essere degli orsacchiotti, io li capisco, in effetti è affascinante essere un orso, secondo me. L'album è Milo Goes to College del 1982, ovviamente, un disco fighissimo. Questa piccola parentesi super veloce ci traghetta verso invece il penultimo pezzo di oggi, che è un pezzo secondo me bellissimissimo dei Pixies, ovvero Caribou. L'album è Come On Pilgrim del 1987. Caribou, insomma, voglio vedere chi altro ha scritto un pezzo sul Caribou, secondo me nessuno. E fra l'altro pare che il cantante dei Pixies, Black Francis, che ha scritto il testo di Caribou, disse che ha confessato che proprio in realtà non ha assolutamente nessun ricordo di aver scritto questa canzone, non se lo ricorda assolutamente, e comunque gli piace un sacco, dice che è una delle canzoni sue preferite. Peccato che non si ricorda assolutamente da cosa venga e di averla scritta, e pare che in ogni caso Black Francis abbia detto che la canzone parla di, probabilmente, a suo dire, perché appunto non ne è certo, il cantante stesso, quindi lui stesso, che si rincarna in un caribù. Beh, diciamo che ognuno ci può vedere un po' quello che vuole, visto che neanche lui che l'ha scritta sa bene che cosa, di cosa parla e come è venuta al mondo. Vabbè, comunque secondo me chiunque l'abbia dettata è in ogni caso bellissima. Thank you. E dopo questa sorta di valzer onirico ci salutiamo perché è arrivato l'ultimo pezzo di quest'oggi, di questa scaletta animalesca, che è Black Snake Moan di Blind Lemon Jefferson, un pezzo anzianotto perché è del 1927, quindi insomma un po' di blues, vecchio stile, vecchissimo stile. E con questo appunto ci salutiamo, vi do appuntamento a mercoledì prossimo, ovviamente sempre intorno alle 21, minuto più, minuto meno, più che meno, e quindi poi ovviamente vi lascio in compagnia dei programmi del Wombat, che stasera sono terminati con le dirette, ma abbiamo un bel po' di repliche e ovviamente il nostro meraviglioso Bubinone. Quindi a mercoledì prossimo, e vi ricordo ancora la diretta dal corteo Antifa di sabato prossimo alle 15. Ciao ciao! Got no mama now. Oh, ain't got no mama now. It's over late last night. You don't need no mama no how. Black snake crawling in my room. Black snake crawling in my room. Some pretty mama better come and get the black snake soon. Oh, that must be a bed bug. Baby, I can't bite that hard. Oh, that must be the bed bug. Honey, if you can't bite that hole. Asked my gibber for 50 cents. She said, lemon ain't a child in the yard. Mama, that's all right. Mama, that's all right for you. Mama, that's all right. Mama, that's all right for you. Mama, that's all right. Won't you know where you do? What's the matter now? Honey, what's the matter now? Sugar, what's the matter? Don't like no black snake, no how. Wonder where my black snake gone. Wonder why the black snake gone. Black snake mama, run my darling home.